America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Bene, spesso vi faccio sentire lo scampanellio di Wall Street. Beh, oggi ve lo faccio sentire perché il campanello lo ha suonato il presidente del Consiglio Enrico Letta. Ieri mattina ha visitato la borsa di New York, ha avuto un incontro con un centinaio di investitori e appunto ha avviato gli scambi di borsa. Sentiamo Letta che parla agli investitori a Wall Street. We are trying to continue on the path of the fiscal consolidation. Italy's big debt, of course, is a big problem for us. We know very well, but is a manageable problem. I think you can easily. Beh, dunque, c'è un messaggio misto, devo dire, del Presidente del Consiglio, un messaggio, diciamo, normale, la presentazione del progetto Destinazione Italia, come il nostro paese può migliorare e così via, così via. Ma c'è stato anche, devo dire, un taglio molto politico. Il Presidente del Consiglio ha risposto indirettamente a Silvio Berlusconi e a coloro che vorrebbero far cadere il suo governo con un'affermazione molto diretta a questo proposito, e cioè che la stabilità politica dell'Italia diventa oggi un fattore chiave per poter determinare un circolo virtuoso che porterà il paese alla crescita già entro la fine dell'anno, che consentirà all'Italia di crescere durante tutto il 2014, di creare nuovi posti di lavoro, soprattutto, ha detto Letta, di abbassare i tassi a cui il governo si deve indebitare addirittura fino al 2% nel corso del 2014. Ed è questo il circolo virtuoso, la possibilità di passare da una parte delle misure che introducono flessibilità rispetto alle rigidità strutturali, per esempio ridurre il cuneo fiscale, questo porterà più soldi in busta paga, meno costi per le aziende, più consumi e così via, così via. E per chiudere il cotelletta, devo dire, la giornata è stata caratterizzata dall'economia. Il Presidente del Consiglio ha parlato alle Nazioni Unite, l'esordio, il suo esordio alle Nazioni Unite è stato di nuovo improntato col tema economico, in questo caso un tema macroeconomico. Si è parlato di sviluppo sostenibile, della necessità di poter passare finalmente alla crescita dopo 5 anni di crisi e di poterlo fare migliorando situazioni su ogni fronte, anche sul fronte dell'ambiente, su quello delle donne. E poi naturalmente la parte politica, Siria, Iran, ci sono degli spiragli positivi. Letta dice approfittiamone. On the side, una curiosità, Expo 2015, Giuseppe Sala, il commissario del governo, e qui a New York lavora in tandem con Letta per cercare di attirare i partecipanti americani all'Expo, e ci sono delle scadenze. Entro il 15 di ottobre dovrebbe esserci una adesione formale da parte degli Stati Uniti, ma la notizia di ieri è curiosa perché è stata scelta Disney. Disney produrrà la mascotte, o meglio una famiglia di mascotte, che sarà rappresentativa dell'Expo 2015, dedicato al settore alimentare, all'agricoltura sostenibile, alla lotta contro la fame e contro le carestie. I'm reading tweets that concern the hashtag defund Obamacare because, but I will note there has been another hashtag tonight, make DC listen. And that hashtag has been trending higher and higher, make DC listen. And as the evening goes forward, I fully expect for those of you who have something that you want to say. Ecco, l'economia ha dominato anche sul fronte americano. Vi ho parlato finora di Italia, ma il signore che avete ascoltato, il senatore Ted Cruz del Texas, pensate, ha parlato al Senato per 21 ore di seguito, 21 ore, quindi durante la notte, è arrivato fino a mezzogiorno di ieri, per dare un segnale forte del suo punto di vista. Forse se ne avesse parlate anche 15 sarebbe stato lo stesso, ma Cruz ha voluto fare così un gesto di protesta contro il finanziamento dell'Obamacare. Perché vi parlo di nuovo di questo? Ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Beh, perché ci sono stati degli sviluppi alquanto preoccupanti. Il segretario al Tesoro, Lou, ha detto ieri che per il 17 di ottobre incassa ci saranno soltanto 30 miliardi di dollari. E con 30 miliardi di dollari, ha detto lui, noi non andremo da nessuna parte, non potremo neanche chiudere la giornata. Bisogna rinnovare, alzare il tetto sul debito. Ma di tetto sul debito non se ne parla. Non se ne parla perché? Perché entro il 30 di settembre bisogna chiudere l'accordo sul bilancio, che non si chiuderà, con un rischio. Qual è il rischio? Quello che il governo americano chiuda. Quindi voi capite che davanti a noi in America, beh, altro che problemi economici, c'è un rischio di paralisi politica che può portare prima alla paralisi del governo e poi addirittura al fallimento degli Stati Uniti d'America. Ecco, io non credo che nell'una nell'altra delle due possibilità vada a verificarsi, però devo riferirvi che ieri in televisione americana non si è parlato d'altro, le dirette erano soltanto dal Senato, con questa fatica sovrumana, con questa maratona di Cruz, che poi ha letto di tutto in queste sue 22 ore, persino una poesia dedicata ai figli che dormivano. Ecco, è andata avanti fino a mezzogiorno, poi Harry Reid ha preso la parola e ha detto: bene, finalmente questa storia è finita, è stata, ha detto, una gran perdita di tempo, anche perché poi i senatori nel frattempo se n'erano andati, anche i repubblicani. Ted Cruz è un repubblicano del Texas, era rimasto da solo, anche gli usceri se n'erano andati, non lo potevano più sopportare questo Cruz che continuava a parlare, a parlare, a parlare. Pensate, 21 ore di fila. Stanno cercando di capire al Guinness dei primati se per caso questo sia davvero un primato assoluto. Ecco, la sua maratona però non ha portato a nulla. Pensate che alla fine la misura per andare avanti nel dibattito è stata poi approvata con 100 voti a zero, incluso quello di Cruz, che tutto sommato parteciperà al dibattito se non altro per esprimere il suo parere contrario. Certo, se si fosse fatto 21 ore prima, ma sarebbe stato meglio per tutti. La palla però resta una palla molto rovente. Il presidente degli Stati Uniti è intervenuto ieri, Bill Clinton è intervenuto ieri dalla sua Clinton Initiative. Ciascuno ha cercato di richiamare tutti a un minimo di razionalità, anche perché l'America, diciamo, sta recuperando, sta andando bene, e dunque esporsi, come succede da noi, a questi otto volante non aiuta nessuno. Non a caso la borsa ieri ha chiuso in perdita. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPratero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la voglio dedicare alla vela, la voglio dedicare alla vela perché ieri in America c'è stato un miracolo, un vero miracolo, un miracolo dello sport. La più grande rimonta, vi ho parlato del più grande, del più lungo discorso al Senato della storia, beh, questa è la più importante rimonta sicuramente in una gara a vela. Oracle, l'America's Cup, la più grande competizione velistica al mondo. Oracle, finanziata da Larry Ellison, il fondatore di Oracle, che e il grande produttore di software, ha vinto. E dunque, prendendo lo spunto da questa gara velistica, dalla necessità che abbiamo un po' tutti di raccogliere il vento, di procedere con il vento in poppa invece di ammainare le vele come rischia di succedere, godiamoci un classico, Sailing di Christopher Cross. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!